senza aver lasciato un segno. Deludente comprimario qui nell'ombra, cancellabile, distruttibile bersaglio nelle critiche allo show. Posso anche colpire gli occhi dei presenti, esaltato protagonista, personaggio fulminante, inconfondibile, accecante, un po' come vuoi te. Voglio vivere queste giornate di prove come in un concerto e trovare il mio controcanto di note dal basso che risuonano in fondo a tempo con la gran cassa, con i giri del mondo. Un passaggio verso me, un cambio di tonalità, sono note piene di profondità. Accompagnano il canto lungo un verso riflesso delle cose che sento, un crescendo verso te. Se stai cercando novità, sono nuove note di semplicità. Riflesso delle cose che sento.